Quando noi vediamo una ragazza passeggiar, cosa facciamo? Noi la seguiamo e con occhio scaltro poi cerchiamo di indovinare quello che c'è da capire. Ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più. Ma le gambe, ma le gambe sono belle ancora di più. Le manine deliziose ti sapranno accarezzare. Ma tu canto un po' nervosa e ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe sono belle ancora di più. Quando una macchietta dal musetto seduttore ti guarderà, ti parlerà, il tuo sguardo acuto, prepotente indagatore, che cosa fa? La folgherà. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ma le gambe, a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri, se nasino un po' all'insù. Ma le gambe, sono belle ancora di più. Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu. Ah, ma le gambe, sono belle ancora di più.